Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. E ci siamo anche noi, liberiamo la voglia di fare, liberiamo la voglia di passare insieme un bel sabato pomeriggio in diretta. Sono le 15.00, 20 secondi a Radio 24, questo è il sabato del villaggio. Lo sapete, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. I nostri liberi consigli per il fine settimana, nella terza ora dalle 17 alle 18, come sempre, il consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Come trovarci? Beh, molto semplice, il numero per SMS e WhatsApp è 349-238-6666, poi c'è il mio account di Twitter, chiocciola Marta Cagnola, anche se voleste usare Instagram, insomma. Tutto pronto per questo sabato del villaggio? Di cosa parliamo nella prima ora? Beh, continuiamo a preparare i regali e le feste di Natale, perché questo è il momento, non più avanti, quando ci sarà troppo traffico, quando non ci sarà più niente di quello che desideravamo nei negozi. Dobbiamo farlo adesso, quindi l'appuntamento con il gastronauta, parliamo di bollicine. Abbiamo parlato di panettone, adesso parliamo di bollicine. Le tecnologie con Enrico Pagliarini, questa volta un sacco di dritte sui viaggi, altro classico di Natale. Come sempre il cinema, con tutte le novità in sala questo fine settimana, ma prima i consigli per uno dei regali più amati, la musica. Questa città non dorme, allora siamo in due. Per non farti scappare, chiusi la porta e consegnai la chiave a te. Adesso sono certa della differenza tra prossimità e vicinanza. È il modo in cui ti muovi in una tenda in questo mio deserto. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Pesare il cuore con entrambe le mani, ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza a casa nostra, il contatto è il tuo conforto. Ah, che fare con me è qualcosa che ha che fare con me. Se questa città confonde. E finalmente lo possiamo dire, questo sarà il prossimo singolo tratto dal Mestiere della Vita, un disco straordinario uscito in questi giorni, che è il nuovo disco attesissimo di Tiziano Ferro. Chissà in quanti stanno pensando se regalare o meno questo disco. Sarà un bel disco, io già ho detto la mia presentandolo, ma lo chiediamo a uno degli amici del Sabato del Villaggio, critico musicale del giornale, Paolo Giordano. Ciao Paolo! Eccomi, bentornato. Ciao Marta, ciao a tutti. Allora, cosa diciamo di questo Mestiere della Vita? Il disco di Tiziano Ferro è qualcosa che trovi sorprendente, perché lui, insomma, mi ha anche spiegato che ha comprato le vecchie apparecchiature che usava al tempo di Perdono e si è pensato da solo, si è prodotto in viaggio questo disco, salvo poi ritrovarsi con Michele Canova a Los Angeles. È un disco che ti spiazza, perché è un disco multistrato, un disco molto affascinante all'inizio e poi bello convincente, perché parlando che abbiamo ascoltato adesso con Giuseppe Ferreri, signore Carmen Consoli. Con Carmen Consoli, vabbè, ogni tanto ci sono questi queste sovrapposizioni sbagliate. È un brano che lui stesso a me ha detto è uno dei più importanti della mia vita, è uno dei più importanti della mia carriera, e io sono convinto che lui abbia ragione. Questo è un pezzo che sarà il prossimo singolo, come hai detto tu, ed è qualcosa che lascia un po' disarmati, tanto è bello all'inizio, ma tutto il disco nel complesso, anche il duetto con Tormento, oppure il diciamo l'escalation di emozioni che ci sono canzone dopo canzone, io credo valga la pena di un disco da Natale. È un disco che uno si ascolta nei giorni in cui sta a casa. Ecco. Vero, vero, vero. Con gli amici, con un bicchiere di vino, col divano. Esatto, cioè un disco da divano, ma anche un disco da macchina, un disco da radio, è un disco che uno si può ascoltare anche leggendo i testi. Perché guardate che i testi di Tiziano Ferro non sono così, sono secondari, sono calibrati parola per parola, perché lui è uno dei pochi italiani che ancora scrive i testi con la stessa calibratura che usavano i vecchi artisti, i vecchi compositori, i vecchi autori. Anzi, questa quindi, volta ha detto che addirittura ha confessato che ha scritto prima i testi delle musiche, che, cioè che questi brani sono partiti dai testi. Si capisce perché ci sono delle canzoni che hanno proprio, sono la colonna sonora delle sue parole. E questo è, credo sia una rarità in Italia in questo momento. Una verità che merita l'applauso, perché oggettivamente un disco così complesso e un disco così anche attuale è difficile da trovare. Allora, diamo un po' di consigli, Paolo. Dischi usciti in questo periodo da mettere sotto l'albero, tu cosa consigli? Ma insomma, se parliamo di pop, ci sono dei dischi appena usciti, ad esempio come quello di Marco Mengoni dal vivo, intitolato appunto Marco Mengoni Live, che ieri è al primo posto in classifica, e che è un disco molto bello con degli inediti che credo possano soddisfare tutti, e non a caso ha venduto subito un botto appena partito. Poi ci sono dischi che a me personalmente piacciono, che io regalerei ai miei amici, ai miei diciamo fan che seguono con me questo gruppo, c'è Rolling Stone. Ah certo, certo. Rolling Stones hanno pubblicato questo disco blues, un disco quasi punk, tanto violento, però sono canzoni già incise da altri, canzoni degli anni 50, degli anni 60, degli anni 70. Uno dovrebbe ascoltarle senza rendersi conto che sono i Rolling Stones. Dopodiché pensa, secondo me, che sono canzoni suonate da un gruppo di trentenni, un po' arrabbiati, vecchio stile naturalmente, ma accidenti, che passione c'è lì dentro. Io so che tutti pensano, i Rolling Stones sono una macchina da soldi, non ne frega più niente. Io invece credo che questo disco registrato in 3 giorni raccolga un po' anche quello che secondo me potrebbe essere l'ultimo disco di inediti che fanno, perché ragazzi, il batterista è più vicino agli 80 che ai 70, quindi sono in gamba ma non sono più giovanissimi. Facciamo risentire un brevissimo assaggio, tanto per far capire quello che stai dicendo. Questi settantenni non sono, ma settantenni abbondanti non sono male. Questo intendeva dire Paolo Giordano, esatto, quando diceva... Dovete sempre pensare una cosa, che chi sta cantando in quella canzone ha la stessa età di Mario Monti. Beh, che anche lui si mantiene bene, ma insomma non è esattamente un rocker. Esatto. Senti, a proposito, disco da regalare alle zie, alle mamme, alle nonne, a qualcuno che magari ha dei gusti un po' più classici. Cioè, sembra fatto apposta, è Mine Celentano insieme. Ah beh, certo. Mine Celentano è il disco fatto apposta per questo, è un disco secondo me un pelo sotto magari quello celebrissimo del 97-98, ma è un disco completamente cantato in un modo stellare. Cioè, Mina lo sappiamo, Mina è una che canta sempre al primo colpo e le sue registrazioni sono quelle, quasi sempre fatte alla prima o alla seconda tentativo, insomma la seconda volta nella sala di incisione. Ma Celentano stavolta in questo disco canta come forse mai nella sua vita ha cantato, con una voce rotonda, calda, legnosa nel senso di legno da ardere, legno da camino, ecco, quindi proprio molto, molto colorata, bella, bella, molto bella. Io più che le canzoni, talvolta ascoltando quel disco mi concentro sulle voci e ragazzi, in giro ce ne sono poche altre così. Paolo, invece per roba più pesante, più cattiva? Cattiva, cioè un disco fatto apposta da gente che ha voluto essere cattiva di nuovo, cioè, sono i Metallica. Io un disco che ricorda molto i primi due, Kill 'Em All, Ride the Lightning, ed è per questo che a me non piace tantissimo. Eh beh, il fan dei Metallica. Esatto, io li ho consumati quei due dischi. Però è un doppio disco di musica che se uno ama davvero i suoni forti, la loudness, la batteria tirata, beh, non ce n'è in giro in questo momento, sono comunque super top. Allora aspetta Paolo, ti faccio un'altra citazione che ascoltiamo subito. A proposito di settantenni più o meno, allora, che ci danno ancora pesante, questi, ecco. Metto tra parentesi un secondo per chiedere a chi ci ascolta una standing ovation per Marta. Perché ragazzi, i Pooh l'altro giorno hanno fatto una conferenza stampa emozionante per me almeno, cui hanno annunciato veramente ciao, facciamo concerto, ci salutiamo e magari ci rivediamo, però in ogni caso la nostra storia finisce qui. E dopo 50 anni onestamente si stanno molto autocelebrando, ma in fondo se lo meritano. Se io penso che cosa pensavo dei Pooh quando avevo 18 anni e ascoltavo i Metallica, adesso devo smentirmi. Quasi un po' mi vergogno. Ragazzi, questi sono super musicisti che suonano bene e hanno un repertorio fantastico. Io il disco quasi quasi me lo regalo da solo, perché il loro disco è un disco che sta andando benissimo. Benissimo sta andando, sì, sta andando sì. Benissimo, è stato subito plastico, cioè quel disco che raccoglie i loro successi con tanti altri, diciamo, regali e foto, libri, eccetera, è un disco che raccoglie la mia storia di italiano, la vostra, quella di tutti, perché ci sono canzoni che noi abbiamo ascoltato e talvolta abbiamo sottovalutato. Io, come Pierre, per esempio, che è un pezzo del 76, nel quale si parla di una, diciamo, di un'amicizia con di un compagno di scuola che è diventato, che è gay, e che hanno ritrovato dopo anni e che quindi rivedendo in una certa condizione, in una certa situazione, hanno capito che Valerio Negrini, che scrisse il testo, ha capito insomma che cos'era, perché, qual era il suo sorriso strano ai tempi del liceo, ed è qualcosa che se pensate è stata scritta nel 76, con una, diciamo, un rispetto, un garbo, una profondità che uno non ha mai pensato di attribuire ai Pooh, e che invece adesso in questi 50 anni scopre quanto siano stati non solo pionieri antesignani ma anche coraggiosi. Ci sono cantanti che oggi, quindi stiamo parlando di 40 anni dopo, il 76, non hanno il coraggio di dire quelle cose che loro dicevano a metà degli anni 70. Ed è quindi qualcosa di io direi che un commiato ai Pooh, insomma, se lo meritano, ma ovviamente, ma meritano una grande rivalutazione rispetto ai luoghi comuni che li hanno accompagnati. Tra l'altro a me è piaciuto molto durante questa conferenza stampa, con tante lacrime, con tanta commozione, sì, come era giusto che fosse l'ultima conferenza, esatto, stampa della storia dei Pooh, hanno citato per questo affetto ritrovato da parte del pubblico e della stampa una frase di un brano di Valerio Negrini che era: ho imparato a dirti amore quando ormai c'era da andare. Effettivamente in tanti hanno imparato a dire amore dei Pooh. Tra l'altro stavo controllando in questo momento, mentre parlavamo, se ci sono ancora biglietti per il 30 dicembre per il concerto di addio, dove io sarò sicuramente. C'è ancora qualche biglietto? Quindi io ci vado, ci andiamo, Paolo. Sai che potrei mettere in cantiere questo trasferto. Dai Paolo, io te la butto lì. Prendiamo il 30 e andiamo a Bologna. Dai, d'altronde ragazzi, ho un secondo per raccontare un aneddoto. Dai, tanto ormai abbiamo in ritardo la viabilità. Collega della viabilità, scusaci solo un attimo che abbiamo, sì, un aneddoto sui Pooh. Vi racconto una cosa per capire il Pooh. Robby Facchinetti una volta mi ha raccontato che in una vacanza lui è andato in Cina a girare sulla muraglia cinese ed era, stava affacciando davanti al panorama meraviglioso che si vede sulla muraglia cinese, e di fianco ha sentito uno che diceva: non restare chiuso qui. Vabbè, capito. Allora, Facchinetti si è girato e ha detto: pensiero. Questo per dire che insomma in Cina i Pooh non sono del tutto popolari, ecco. Vabbè, straordinario, esatto. Grazie Paolo per essere stato con noi. Noi ti disturbiamo sempre a Sabato del Villaggio, ci fa molto piacere, tanto tu sei sempre carino con noi, ti chiamiamo ogni tanto. Ci vediamo il 30. E ci vediamo il 30, ma secondo me ci vediamo anche prima. Ciao Paolo. Noi diamo la linea, scusandoci per il ritardo, alla viabilità e ci ritroviamo subito dopo. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta il Sabato del Villaggio. E a proposito di grandi classici, dalla musica passiamo al cinema con questo classicone. Canta, si sai cantare, c'è orchestra, capa che fa? Volentieri, cedo alla violenza. Mi sembra infatti giunto il momento di un simpatico intermezzo musicale. Volentieri. Voglio morire! No, questo pezzo non lo conosco, però provvederò a inserirlo nel repertorio. Nel frattempo, maestro, lei conosce Champagne? Del maestro di Francia? Esatto. Ma che tonalità? Beh, direi senz'altro un fa maggiore. Va bene. Champagne, per brindare a un incontro. Champagne, tu che eri di un altro. Beh, questa è la versione di Champagne che in tanti ricordano ridendo. Io impazzisco per questa scena di un gran classico che era Rimini Rimini. Lui era Maurizio Micheli, che per sempre, per almeno la mia generazione, ha sostituito Peppino Di Capri nell'interpretazione di Champagne, anzi di Champagne. Allora parliamo di bollicine, lo facciamo ovviamente col nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao. Devi sapere che la canzone Champagne è una delle mie preferite. Spero quindi che ti piaccia anche questa versione singolare. Questa è divertente, ma ti dirò di più: che anni fa mi rubarono la macchina e io avevo dentro la Champagne, che era uno degli ultimi esempi che erano rimasti. E quindi quando aprì la macchina, molti miei amici lo sanno, disse: non mi dire che mi hanno rubato anche la cassetta Champagne. Quindi per dirvi. Però devo dire che per noi italiani purtroppo non c'è nessuna canzone che inneggia lo spumante. No. Speriamo che prima o poi ci sia qualcuno che per l'amor patrio faccia inneggi allo spumante. Ma sai, questa disfida di bollicine tra champagne e bollicine italiane dura da una vita. Ora pare che per numero di bottiglie, però dove dentro ci va un po' di tutto, non solo diciamo gli spumanti di primissima qualità, gli italiani hanno cominciato a battere per numero di bottiglie i francesi. Questo è un grande onore di merito. Sono due, credo che siano due vini diversi, io li chiamo vini perché secondo me rimangono vini, sono due vini completamente diversi. Uno ha 200 anni di storia, uno è molto più giovane come lo spumante italiano, però abbiamo delle aree molto vocate, perché abbiamo il Franciacorta, abbiamo il Trentino, abbiamo qua e là anche nel resto dell'Italia, ma abbiamo anche l'Oltrepò, che

Allora, c'è un ascoltatore che ci chiede il nome del paese, Sernaglia della Battaglia, provincia di Treviso. Treviso alla Libera. Grazie Davide, ci troviamo il prossimo sabato, quindi allora ci prepariamo torroni, panforte, tutte queste cose buonissime. Fantastico. Va bene. Grazie Davide, al prossimo sabato. Buona domenica a tutti. Il sabato del villaggio. È il momento delle tecnologie di Enrico Pagliarini, io lo vorrei introdurre così. Driving home for Christmas, guidando verso casa, tornando a casa in macchina per Natale, è una delle cose che si fanno, viaggiare per Natale, per tornare a casa o anche per andare in vacanza. Quindi con questo Mario Biondi introduciamo il tema di cui parliamo oggi con Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buongiorno a tutti, ciao ciao. Come se tu fossi qui, chissà dove sei, ma è sempre come se tu fossi qui. Ti sentiamo benissimo, ma non sei in studio con me, chissà che dove sei. È il bello di internet, no? Esserci e non esserci. Allora Enrico, esserci o non esserci. Scriveva su una rivista, però era una rivista di carta, ma era un viaggiatore e si firmava Somewhere on the Net. Esatto, anche tu sei Somewhere on the Net, ma è come se da qualche parte nella rete. Allora, viaggi. La scorsa settimana abbiamo cominciato a parlare di regali. Torneremo a parlare di regali di Natale, dei regali da preparare, dei regali dell'ultimo minuto. Lo faremo ancora. Ma intanto una delle cose da preparare per i giorni di Natale sono i biglietti aerei, i biglietti del treno. La tecnologia ci aiuta tantissimo. Sì, la tecnologia ci aiuta tantissimo. Allora, vi dico subito che secondo me la cosa principale da avere quando si viaggia è un buon paio di scarpe, perché tutto il resto si compra, si scarica. Le scarpe o ce le abbiamo buone perché ce le siamo formate con un po' di tempo. Qua c'è poca tecnologia, però è un po' un... Allora, alcune cose che dobbiamo avere necessariamente, che abbiamo già ripetuto in altre occasioni, però le ripetiamo perché sono cose che costano anche tutto sommato abbastanza poco. Allora, batteria esterna per ricaricare lo smartphone quando siamo in giro. Certo. Soprattutto per il viaggio, anzi direi, mentre siamo in città, nel nostro luogo dove viviamo e lavoriamo, insomma, per ricaricare il telefono da qualche parte troviamo una presa elettrica. E mentre siamo in viaggio, magari siamo in una città, ma tutto il giorno camminiamo perché visitiamo la città, e una batteria esterna ci è utilissima. Se poi vogliamo essere certi al 100%, una batteria che si ricarica con la luce solare. E anche se c'è brutto tempo, beh certo, nella giornata come quella di oggi a Milano, dove magari c'è un po' di nuvolo e poca luce, non è che si ricarica tanto, però no, sicuramente certo, è un buon aiuto. Allora, adattatore universale per la presa elettrica se andate all'estero. Sì, perché ho appena raccontato a Enrico che io ho sbagliato adattatore l'ultima volta che sono andata in Francia. Non c'è bisogno di andare lontanissimo. No, cioè, infatti, purtroppo... perché loro non hanno la messa a terra, e quindi se tu hai una di quelle prese con tre... Tripolare. Enrico mi viene sempre in aiuto perché mi conosce. Allora, ci sono... Ormai gli adattatori universali sono degli scatolotti, cioè sono abbastanza grossi proprio perché hanno le prese di un po' tutti i paesi del mondo dove ci sono prese diverse. Ci sono alcuni paesi che hanno prese simili ad altri, ma insomma la varietà è molto vasta. Ecco, un consiglio: prendere un adattatore con anche le uscite USB. Allora, in questo modo possiamo lasciare a casa il caricatore dello smartphone o del tablet. Io ho un fantastico caricatore, ho un fantastico adattatore che ha anche queste prese USB, e con un unico strumento fai un po' tutto. Così uno, come dicono gli americani, one fits all. Cioè con una cosa fai tutto. Hai più buchini per infilare. Sì, ah, sì, fantastico. Esattamente. Ah, così ricarichi tutto, perfetto. Un'altra cosa magnifica, meravigliosa, bellissima, una di quelle cose che quando la compri, ma soprattutto quando la usi, dici perché non ci ho pensato prima. Cuffie a cancellazione di rumore. Sono una tecnologia che esiste già da un po' di tempo, sono straordinarie perché cancellano i rumori esterni, ce ne sono alcune anche molto evolute, non costano poco purtroppo, o meglio, quelle che costano poco sono sconsigliate. Ultimamente hanno fatto cuffie fantastiche che si collegano in Bluetooth con il nostro smartphone, che ci permettono di, se vogliamo, ascoltare i rumori all'esterno, perché quando sono in modalità cancellazione di rumore noi di fatto sentiamo molto poco quello che c'è all'esterno, però se uno ci parla ci sono alcune cuffie che ci permettono in modo molto veloce di bloccare questa funzione e sentire quello che ci sta dicendo magari il nostro vicino di seggiolino quando siamo su un mezzo pubblico, ad esempio. Queste sono un buon consiglio per i viaggi lunghi in aereo, diciamo che sì, oppure anche se uno viaggia in treno, in automobile sono sconsigliate, certo. Soprattutto se siamo passeggeri sì, ma se siamo piloti no, i rumori bisogna sentirli. Hai detto che vale la pena spendere, ma quanto costano più o meno? 300, 400, 500. Ah, accidenti, un acquisto importante. Sono, allora, sì, ci sono anche cuffie che costano un po' meno, però direi da sconsigliare. Valigie. Dunque, dovrei tirare le orecchie ai grandi produttori di valigie perché si sono evoluti molto poco. La valigia sostanzialmente è quella da anni. Invece c'è una, ma chiamarla startup a questo punto non direi più perché ormai ha 3 anni di vita, ma è poco conosciuta. È un'azienda americana che si chiama Blue Smart, quindi è scritto Blue Smart, uh-huh. È una valigia smart che fa un sacco di cose. Anche questa purtroppo non costa pochissimo perché stiamo parlando di $450, però adesso vi dico quello che fa questa valigia ed è meravigliosa e secondo me è molto utile per chi viaggia molto. Allora, innanzitutto ha un GPS integrato, ha un abbonamento a vita, quindi non dobbiamo pagare nessun tipo di abbonamento, ha un GPS integrato e quindi si può tracciare la valigia ovunque sia nel mondo. E già con questo mi hai convinto, per noi che viaggiamo tanto è sempre il terrore di perdere le valigie, soprattutto se stai andando in un posto per lavoro è il terrore di perdere la valigia. Quindi se la perdi o te la rubano, la puoi rintracciare. Certo, se te l'hanno rubata e te l'hanno portata a 300 km di distanza, devi rincorrerla, però comunque sai dove si trova. E a volte, ad esempio, ultimamente mi è capitato, ero a cena, una persona ha detto non trovo più il telefono, ma con un altro smartphone abbiamo geolocalizzato il telefono e in realtà ce l'aveva in automobile. Quindi sono cose che possono essere utili. Allora, questa valigia ha una batteria integrata che puoi utilizzare per ricaricare lo smartphone, il computer, eccetera, eccetera. Quindi la valigia va caricata lei stessa, perché certo, avendo questa batteria integrata. Ha un lucchetto Bluetooth, quindi puoi utilizzare l'app, si connette con lo smartphone, hai un'app e puoi chiudere la valigia. Però uno potrebbe dire, vabbè, ma non è che è molto comodo utilizzare. Ecco, il vantaggio di una cosa del genere è che se la valigia si allontana dal tuo telefono o comunque da te, che immaginiamo che tu il telefono ce l'hai in tasca, la valigia si chiude automaticamente. È una funzione che può essere disattivata, però quando spediamo la valigia, ad un certo punto la valigia si chiude con il lucchetto. Ultima funzionalità smart, ha una bilancia integrata, cioè tu la reggi, bellissimo, no? Tu reggi la valigia con il manico e sullo smartphone ti arriva l'indicazione del peso e sappiamo benissimo che soprattutto con alcune compagnie se sforiamo con il peso quando spediamo la valigia sull'aeroplano paghiamo una certa cifra. Sì, in alcune tutto compagnie questo, poi ti costa veramente tanto. Ah sì. Quindi questo è sicuramente un bell'oggetto, effettivamente non è a basso costo, ma è molto, cioè ha una serie di funzionalità, diciamo, molto utili. Diciamo utile per chi viaggia molto, soprattutto sì, per sì, lavoro. Sì, sì. Sì, sì. Poi entriamo nel capitolo delle app, però adesso mi sembra che ci sia la viabilità e quindi lo facciamo dopo. È straordinario dopo. Perché Enrico, so che dovunque sia collegato, no, non un lo orologio so, sincronizzato. Però ha sincronizzato l'orologio con quello di Radio 24, quindi sono le 15:45 minuti e 9 secondi, diamo la linea al traffico, poi sentiamo le app di Enrico. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. vi presenta Il sabato del villaggio. Eccoci Enrico. Allora, le app, sempre per quanto riguarda i viaggi. Allora, ne ho selezionate tre, lasciando perdere gli aeroplani, perché le prime che mi vengono in mente sono quelle per trovare voli aerei oppure per tracciare gli aeroplani in giro per il mondo. Vabbè, ne parleremo. Sì, ne parleremo, insomma. Sono molto divertenti. Allora, un'app molto bella che è collegata ad un servizio di una startup italiana, ma vale per tutto il mondo. Si chiama Musement. Allora, che cosa fa Musement? È un servizio molto semplice, ma molto utile e devo dire completo in molte città del mondo. Se noi andiamo in una città e vogliamo organizzare la visita di alcuni luoghi, un museo, un parco, magari organizzare la visita della città con una guida, questa applicazione fornisce questo tipo di servizio. Possiamo prenotare in un'unica app tutti questi servizi. È molto comoda, molto semplice e devo dire molto completa. Ah certo, invece di prenotare solo i biglietti per spostarsi, anche i biglietti per le attrazioni. Seconda app, allora, Hotel Tonight. Se allora, è vero, ci possiamo organizzare per tempo, però a volte magari facciamo una visita in un luogo dove non abbiamo organizzato, ci vogliamo fermare una notte. Allora, con Hotel Tonight ci geolocalizza l'applicazione e ci dice, ci suggerisce, con anche un sacco di offerte, gli hotel più convenienti o comunque che hanno un buon rapporto quella notte. O perfetto, la notte successiva. Molto facile, molto semplice. Hotel Tonight. E poi c'è una piattaforma per noleggiare biciclette da privati, una sorta di Airbnb delle biciclette. Mm-hmm. Puoi noleggiare all'ora, al giorno, eccetera. Si chiama Spinlister. Perfetto, Spinlister. Me le sono segnate. Bellissima, molto, molto divertente, molto utile. Perché effettivamente visitare le città dalla bicicletta ti offre tutta un'altra prospettiva. Grazie Enrico, noi ci ritroviamo il prossimo sabato. Ciao. Il nostro lavoro è scoprire come un aereo sia finito nel fiume Hudson. Sull'Hudson. Non precipitati, atterrati sull'acqua. Secondo le simulazioni poteva tornare in aeroporto. Impossibile, dovevo andare. È il mio aereo. Il tuo aereo. Devi sapere che ho fatto del mio meglio. Ma certamente, li hai salvati tutti. Ora per la gente è un eroe. Non mi sento un eroe. Ci mostri il mantello di Super Sally. La stampa ne ha già parlato abbastanza. Non reggo tutta questa attenzione. Il motore sinistro funzionava ancora. E se avessi sbagliato tutto e avessi messo in pericolo la vita dei passeggeri? Ho un aereo che si sta tuffando nel fiume. Hai fatto il possibile, di più non potevi. Lei beve, capitano Sullenberger? Ha problemi in famiglia? Qui è il comandante. Prepararsi all'impatto. Cosa? Ed è il momento delle uscite al cinema del fine settimana, un'uscita, beh, di peso, regista di peso, attori di peso. Varrà la pena andare a vedere questo Sully? Lo chiediamo subito a Franco D'Assisi. Ciao Franco. Ciao Marta, meno male che non è di peso il film, che invece sì, perché è un film molto molto interessante che ti tiene lì. Anche perché con questo regista, con questi attori, sarà brutto. Invece Clint Eastwood non sbaglia, Tom Hanks e Aaron Eckhart sono straordinari nel loro ruolo. Tom Hanks veramente penso sia l'uomo giusto per interpretare questo antieroe americano, questo eroe al di là delle sue volontà, con un grande senso del dovere, l'attaccamento alla maglia, che in questo caso è la bandiera, eccetera, che però si trova travolto in una situazione assurda. Tra l'altro il fatto è un fatto vero e recente. 15 gennaio 2009, il famoso miracolo sull'Hudson. Il comandante Chelsea Sully Sullenberger fa planare il suo aereo di linea con 155 passeggeri a bordo sul fiume Hudson e tutti ne escono illesi. Una manovra che subito viene ribattezzata da eroe, dalla stampa, dai media, dalle televisioni, dalla gente che lo ferma per strada, lo ringrazia, lo abbraccia per quello che ha fatto, tranne che dal consiglio della sicurezza dei trasporti, che dice: sì, tu hai salvato tutti, ma potevi mettere a rischio la loro vita. E invece, se fossi andato ad atterrare all'aeroporto La Guardia, che i nostri software ci dicono che potevi, allora non mettevi a pentaglio nessuna vita. Ecco, allora è chiaro che la battaglia di Tom Hanks e quella di Clint Eastwood segnatamente sono fra quello che dicevano i software, cioè la teoria, e quello che decide un uomo con la sua esperienza, con i suoi 40 anni di volo, eccetera, ed è stata la scelta giusta. Però la burocrazia contro la quale mette questa volta il suo antieroe Clint Eastwood vuole averla vinta. Fortunatamente è stata, dato questa storia, una burocrazia dal volto umano, perché quando le cose sono venute fuori sono andate bene per Sully, però il tema del film non è tanto quello, non è come va a finire, il tema del film è come da qualsiasi punto la si veda la verità e la giustizia sembrano diventate cose, materie opinabili. Ti chiedo subito l'uscita della settimana che scegli tu, Franco, per noi. Sì, guarda, io ho amato molto questo film di Gianfranco Cabiddu che si chiama La stoffa dei sogni, perché è un film temerario sotto un certo profilo, perché oggi fare un film di questo coraggio, di questo savoir-faire film, diciamo così, così ispirato a Shakespeare e a Edoardo De Filippo, con attori che sono perfetti nel ruolo, come Ennio Fantastichini e Sergio Rubini, insomma, non è cosa da tutti, e devo dire che Cabiddu se l'è cavata molto molto bene come regia e come racconto. La storia è molto divertente, chiaramente riprende tanto La tempesta quanto L'arte della commedia di De Filippo, cioè la storia di un gruppo di teatranti naufraghi che arrivano su un'isola, è un'isola carcere, ai quali si mischiano dei camorristi che stanno fuggendo nell'ambito dello stesso naufragio dal quale sono usciti appunto i teatranti. Insomma, le due anime si mischieranno, e per capire il vero e il falso, per capire chi sta barando e chi no, il direttore della carcere, che è Ennio Fantastichini appunto, decide di far mettere in scena La tempesta di Shakespeare. Chi sa recitare mi convince, chi non lo sa vuol dire che non è un attore e quindi resterà qua in galera. Una sorta di, se vuoi, di Grande Fratello ante littera, no? in questo senso, una sorta di reality. Ebbene, bella la regia, bella la fotografia, un film che ti tiene dentro anche grazie a delle musiche straordinarie dall'inizio alla fine, e che anche un evolversi e un finale non scontati. Beh, cosa possiamo chiedere di più? Esce anche un film questo fine settimana del quale abbiamo parlato la scorsa settimana quando abbiamo raccontato quello che era successo a Strasburgo col premio Lux, quindi i migliori film europei. La mia vita da zucchina, film d'animazione un po' particolare. Ancora una volta parliamo di film d'animazione non scontato. Assolutamente. Beh, quando un film d'animazione intanto viene preso alla Kansas del realizzatore a Cannes, vuol dire, sì, che è già una matrice di qualità cinefila e cinematografica assoluta c'è. Ed è questo il caso, per esempio, anche per il tipo di animazione di Claude Barras rispetto a questo film, che vede protagonista un bambino di 9 anni, un'infanzia travagliata, una madre che scompare troppo presto e una casa famiglia che diventa il suo posto, il posto dove crescere insieme a tanti coetanei dai quali bisogna imparare anche a difendersi in un certo senso, e insieme a questa Camille che gli darà la forza e il coraggio per trovare la sua via nella vita. È un film di formazione tout court, questo La mia vita da zucchina, che ancora una volta guarda certo a un pubblico di bambini, ma parla molto anche a un pubblico di adulti, e soprattutto parla al pubblico di bambini con il linguaggio degli adulti, con il linguaggio non del blandirli, del rincuorarli da qualcosa, ma con la dolcezza della verità, cioè la capacità di mettere di fronte alle cose della vita, perché i bambini le capiscono, hanno un istinto per capirle, e in questo senso trovo che La mia vita da zucchina sia un film davvero importante da vedere in famiglia. Grazie Franco, l'appuntamento soprattutto con te è dopo il giornale radio delle 18, La rosa purpurea, e poi ancora sabato prossimo al Sabato del Villaggio. Ciao Marta, ci sentiamo alle 18, La rosa purpurea, parleremo e sviscereremo questi temi e anche molti altri, avremo Bruno Bigoni con noi a raccontarci questo film davvero pazzesco su Rambo e su una ossessione, quella per una fotografia che non si sa se sia vero o falsa, ma il vero falso, come avete visto anche questa settimana, è molto molto presente nel nostro cinema. Grazie Franco, ciao! Ciao! Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Il Sabato del Villaggio. Ed eccoci alla seconda ora del nostro Sabato del Villaggio, sempre il numero per i vostri sms 349-238-6666, numero che va bene anche per i WhatsApp 349-238-6666, ma c'è anche il mio account di Twitter @MartaCagnola, anche il mio account di Instagram @MartaCagnola. Se proprio voleste anche l'hashtag cancelletto ISDV come il Sabato del Villaggio. Ma ora scopriamo i temi di questa seconda ora del Sabato del Villaggio. Avremo con noi il cantautore rivelazione del 2016. L'ho anticipato poco fa sui social. Beh, però ascoltate quest'ora e vi proverò che davvero lui è la rivelazione del 2016. Non ve lo dico ancora. Se volete scoprirlo, o ci state a sentire o andate a curiosare appunto sui nostri social. Ancora consigli per i regali, i libri con la nostra Alessandra Tedesco, le dritte di Maria Luisa Pezzali per i negozi unici, ma prima ancora consigli per non andare fuori moda a Natale. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. See my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. Allora, questo è un altro degli album natalizi che sono usciti in questo periodo, proprio solo di canzoni natalizie. Questo è quello di Rossana Casale, un brevissimo estratto, ma insomma così stiamo anche un po' consigliando tutti gli album con le canzoni natalizie che ci possono così tenere compagnia in questo periodo. Lo abbiamo detto, acquisti da fare adesso, perché stiamo facendo le liste, le letterine a Babbo Natale, gli acquisti in tempo, e quindi torniamo a parlare di moda. Abbiamo detto non la solita sciarpa, la solita cravatta, ma casomai la sciarpa o la cravatta giusta, e ne abbiamo già parlato la scorsa settimana. Adesso altre idee della nostra super super super esperta Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao Marta, buon pomeriggio. Allora Giulia, che cosa possiamo, visto che la scorsa settimana avevamo ancora un po' di cose da dire, sì, continuiamo con i consigli. Io passerei alle borse, perché insomma non c'è donna che non ami le borse. Sai quanto io sia appassionata. Sempre di più anche gli uomini. Il trend anche qui è un po' la personalizzazione. Allora lasciamo perdere quelle proprio di quelle di super lusso, e secondo me proprio quella del momento è la O-Bag, che tra l'altro è italianissima, penso che molti la conoscano, ha una struttura che è uguale per tutte, molto molto semplice. Poi però si possono mettere i bordi di pelliccia rigorosamente ecologica, i bordi scozzesi, i bordi in lana. Quando verrà la primavera si potrà mettere qualche cosa di tela, si possono cambiare i manici, si può cambiare l'interno, tutto con dei prezzi assolutamente accessibili. E poi invece sempre questo è veramente un trend, ma ci si stanno buttando tutti, di fare di borse molto famose, non so, penso o magari appena lanciate ma con dei grandi investimenti, penso per esempio a quella, credo che tutti l'abbiano un po' notata, quella che ha come testimonial Michelle Hunziker per Trussardi, che si chiama Lovey Bag, la borsa amorevole, potremmo definirla così. Di farla piccola, cioè c'è la versione tradizionale ma poi c'è anche la versione piccolina, addirittura vabbè poi ci sono marchi che hanno fatto gli Charm a forme di borsa, però quest'idea di fare in ogni borsa in versione large, medium, small e magari anche extra small, e sono tra l'altro deliziose. Poi certo hanno un uso molto limitato, ma io per esempio, che ci sono cascata naturalmente, le metto una dentro l'altra. Giulia, sempre per avere il consiglio giusto. Giulia, quindi borsa piccola sì, ma dentro una borsa più grande, perché altrimenti non ci sta tutto. Oppure quella cosa orribile che faccio io, la borsa piccola e poi mi devo portare un'altra borsa, esatto, per il lavoro ovviamente. Poi invece un po' un consiglio per tutti, perché qui a parte il trend generale che io sono riuscita a far comprare a mio papà, che ha quasi 80 anni, un paio di sneaker, quindi a parte che anche chi ha sempre idolatrato le borse, le scarpe di cuoio, se prova le sneaker poi non le molla più, ma il trend proprio adesso è o anche qui la personalizzazione di quelle molto tecniche, cioè in Piazza Gaia Aulenti qua a Milano, ma anche su internet naturalmente ci sono Reebok, New Balance e Nike, che offrono questi servizi super tecnologici. Uno entra e se la fa fare su misura per il suo piede, può scegliere i colori, il colore delle stringhe e avere forse un po' l'illusione di averla solo lui quella scarpa lì. E poi invece, come trend generale, davvero guardate le vetrine di qualsiasi Foot Locker o qualsiasi catena di specializzata in articoli sportivi, quelle monocolore, cioè Nike, Adidas, qualunque, you name it, direbbe un americano, sono proprio o tutte rosse o tutte verdi o tutte gialle. Sì, soprattutto rosso e verde viste tantissimo. Sì, sì, sì, sì. Ed è veramente un po' un cambiamento, perché fino all'anno scorso invece si cercavano quelle dove ogni singolo componente della scarpa aveva un colore diverso, magari anche fosforescente. Adesso invece c'è questa nuova tendenza, non so quanto durerà, però intanto possiamo approfittarne. Speriamo che duri tanto quanto il paio di scarpe nel quale camminiamo a lungo. Ancora tendenze? Sì, guarda, quest'anno io sono contentissima quando succedono queste cose, questi corsi e ricorsi. Quest'anno di nuovo ci sono parca dappertutto. Ah, parca. E tra l'altro ho scoperto che il parca ha un'origine antichissima. È stato un po' inventato, inteso come cappotto sovrapponibile con un interno molto pesante di pelo, dai Samoiedi, che sono una popolazione della Russia artica. E loro proprio, quindi Russia del Nord, bisogno di capi caldi. Adesso ne abbiamo, io stamattina ho visto una famiglia che era stupenda, erano papà, mamma, una bambina e un bambino, e ne avevano quattro diversi, però erano tutti parca. Qui ci si sbizzarrisce naturalmente. Cioè parca è quello anche con il cappuccio, con il e magari cappuccio, col pelo attorno. Con dentro col cappuccio con il pelo, sì, attorno, un pelo anche dentro possibilmente staccabile, una culisse in fondo, perché così si protegge anche meno proprio al bordo estremo del cappotto. E qui veramente potete andare sul super lusso con dentro anche pellicce, e devo dire, qui io mi arrabbio un po' quando vedo queste cose, proprio copiare l'idea. I primi ad avere l'idea di fare delle pellicce tipo rosa o azzurre da introdurre nel parca sono stati quelli di Mr. and Mrs. Italy, che è un marchio italianissimo. Certo. E un po' tutti l'hanno copiata, quindi anche qui poi si può andare dovunque, cioè a me sempre dispiace, perché comunque l'idea l'ha avuta qualcun altro, poi tu la copi, inventati qualcos'altro se sei così creativo e vuoi farlo a un prezzo più contenuto. Sì, poi a volte io non riesco più nemmeno a risalire a chi è stato il primo. Esatto, esatto. Mentre due accessori, gli occhiali a specchio sono tornati tantissimo. Dai. Un po' tipo i vecchi Polaroid e Ray-Ban, ma grazie alle tecnologie che continuano a fare progressi nelle lenti, adesso ce ne sono tanti, entrate da un ottico e li vedrete, che visti da fuori nella lente hanno la lente quasi decorata, non so, con degli insetti o magari con il logo del marchio, ma tu quando li indossi non vedi questa decorazione, quindi la vedono solo all'esterno, la visione con questi occhiali da sole è perfetta, e sono molto particolari. E poi ci sono quelli a specchio tradizionali, anche qui appunto si va sul classicone, il Ray-Ban, quello proprio aviator, quello da aviatore, o se no ce ne sono tantissimi altri modelli. E l'ultima cosa, gli zainetti. E qui vabbè, vediamo tutti che ci sono gli zainetti molto sportivi tipo Eastpak, ma adesso bella l'invisione degli zainetti Herschel, che sono quelli con le bande di cuoio, che sono sbarcati anche in un Italia, un po' rettangolari diciamo, esatto, alla grande, sono canadesi loro. Ma la cosa divertente è che anche marchi del lusso come Burberry li stanno rilanciando. Attenzione che poi in Inghilterra si chiamano rucksack, non backpack, come in America, quindi un false friend. E anche qui personalizzabili con le iniziali, o magari anche qua si può chiedere un tartan particolare, quindi il trend è un po' quello. Poi ognuno può scegliere quanta personalizzazione vuole, oppure se vuole essere molto riconoscibile. Poi ci sono ultimi zainetti, sempre quelli di P-Quadro, che hanno dentro, questo è veramente wearable technology intelligente, dove la tecnologia aggiunge qualcosa, non trasforma l'oggetto sulla quale viene applicato, e ha un piccolo dispositivo che ti permette, se tu ti allontani più di, poi lo regoli tu, 10-15 metri, lui ti avverte, guarda che ecco, come la valigia di cui ci parlava poco fa Enrico Pagliarini. Esatto, perfetto. Tra l'altro questo dispositivo lo puoi applicare anche a un ombrello, per dire, io perdo tanti ombrelli, se l'avessi avuto 2 settimane fa non l'avrei lasciato in metropolitana, ecco, ad esempio. Grazie Giulia, grazie mille. Grazie a presto. A te, e buono shopping se lo farai prima o poi. Prima o poi ce la farò online anch'io. Offline. Prima o poi ce la farò, ce la farò anch'io. Grazie a Giulia Crivelli, Traffico e poi ancora insieme. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presento il sabato del villaggio. E all'ascoltatore che ogni sabato mi manda valanghe di insulti via SMS, tutti scritti in lettere maiuscole. Oggi sono idiota e sono anche ipocrita perché dice che il mio è un Natale pagano. Ma quale pagano? Ma un po' di regali per le persone a cui vogliamo bene. Non vanno bene neanche i libri da regalare, no, perché a me regalare i libri piace molto e quindi parliamo di libri. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. E rimaniamo dunque anche questa settimana in clima natalizio. Lo diciamo ancora una volta, perché poi anche se arriva un solo messaggio di quelli che dicono è presto, io mi arrabbio. E arrabbiarsi non fa bene al clima natalizio. Abbiamo cominciato già la scorsa settimana perché i regali vanno comprati per tempo. Bisogna preparare tutti i pacchettini sotto l'albero prima, oppure bisogna fare le letterine a Babbo Natale prima. E quindi diamo tutti i consigli in questo momento per tutti coloro che vogliono regalare o chiedere a Babbo Natale un libro, e ovviamente lo facciamo con Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta. Io dico sempre che un libro è un regalo meraviglioso, sia perché ha un prezzo rispetto a tante altre cose contenuto, sia perché se lo si regala veramente con il cuore, se lo si sceglie per quella persona, dice molto sia di chi fa il regalo che di chi lo riceve. Sono d'accordo con te. Allora Alessandra, anche quest'anno facciamo categorie? Sì, andiamo per categorie, perché così è più facile, insomma, regali dare consigli. Mirati, consigli mirati. Allora, per chi ama i romanzi storici, sicuramente tanti. Il romanzo del momento è Gli eredi della terra, dello spagnolo Ildefonso Falcones, pubblicato da Longanesi. Allora, Ildefonso Falcones inizialmente era un avvocato a Barcellona, eccetera, poi ha capito che scrivendo libri guadagnava decisamente di più e quindi ha deciso di non è un consiglio per tutti gli avvocati, non è che possa andare bene a tutti come al signor Ildefonso, olè. Lui è andata molto bene, perché pensate che il suo primo romanzo era famoso La cattedrale del mare, che è stato veramente un best seller internazionale, e adesso, a distanza di 10 anni, per tutti gli appassionati di romanzi storici e di Falcones è uscito il sequel, che si intitola Gli eredi della terra, pubblicato in Italia sempre da Longanesi. Ritroviamo il ragazzino che nella cattedrale del mare si chiamava Arnau, eccetera, ormai è diventato grande, vecchio, è uno dei signori di Barcellona, ed è stavolta lui ad aiutare un ragazzino in difficoltà, il 14enne Ugo. Ci sono insomma una serie di avventure, di peripezie, un bel tomone, quindi da regalare sicuramente a chi ama i romanzi storici e soprattutto quelli ambientati nel XIV secolo a Barcellona. Ah, bene, bene, vabbè, un periodo molto interessante. Ancora consigli? Allora, per gli appassionati di gialli, ce ne sono tanti in Italia, però il giallo ha veramente tantissime sfumature. Vero. Da quello soft al thriller, a quella propria pulp. Diciamo che il consiglio di questa settimana è per un giallo soft. Per chi ama sangue? Quasi per niente, insomma, direi. È più che altro indagine sui personaggi, perché è il nuovo romanzo di Andrea Vitali, che si intitola Viva più che mai, pubblicato da Garzanti. Diciamo che è un classico il libro di Vitali, anche in questo caso ambientato a Bellano, sul lago di Como. Diciamo che però questo è un po' più giallo dei precedenti, diciamo, sì, forse ha una sfumatura più gialla, comunque ci sono sempre i suoi rassicuranti personaggi di provincia. In questo caso il protagonista è un contrabbandiere di sigarette che fa contrabbando sul lago di Como fra la sponda italiana e la Svizzera, e un giorno con la sua barchetta tac incappa nel cadavere di una donna. Lui non ama molto chiaramente i carabinieri perché è un contrabbandiere, e allora va dal medico di Bellano, dice: oh, guarda, ho trovato un cadavere. Il cadavere è sparito. Quindi sarà il nostro, come dire, contrabbandiere ad aver, come dire, avuto un'allucinazione, o questo cadavere è veramente sparito? Bisogna leggere Viva più che mai di Andrea Vitali. Ancora Alessandra, noi stiamo prendendo nota intanto, eh? Sì, a proposito, se perdete, diciamo, il filo, potete sempre andare su Facebook, sul cacciatore di libri, perché ogni settimana riassumo lì i libri che abbiamo consigliato nel sabato del villaggio. Perfetto. Quindi se non avete carta e penna, non inchiodate con la macchina, ma e poi c'è il podcast, poi naturalmente, il podcast, del sabato del villaggio. Visto che arriva Natale, ho pensato anche a un libro con il quale si può fare del bene in tutti i sensi. Ci sarà sempre un consiglio del genere in queste settimane. Il libro si intitola La bambina con il fucile, scritto da Susanna De Cechi. Il libro dà voce ai bambini soldato che proprio personalmente un medico, Massimiliano Fanni Cannelles, spero di averlo letto giusto, e Laura Boia hanno contribuito sostanzialmente a salvare. Questo libro è stato promosso dall'associazione no profit Auxilia Onlus, il ricavato naturalmente andrà in beneficenza, e secondo me in un periodo natalizio è bello segnalare queste iniziative sia per la finalità, per dove vanno i soldi, sia per le storie che raccontano, perché la storia dei bambini soldato è veramente una storia molto drammatica che ci dovrebbe far riflettere. Sono d'accordo. Altri libri, Alessandra, altri consigli? Altro giro, altro regalo. Guarda che bello, il libro alla radio, quando, guarda che bella copertina. Quando ci sono queste copertine, come potete vedere alla radio, così belle, così festose. Dai, la twittiamo adesso, fra poco la twittiamo. Questo per chi ama cucinare. Se dovete fare un regalo a una persona che ama proprio il mondo della cucina, ma non dico Masterchef, le ricette, no, proprio c'è il concetto di cucina e di cibo come affetto, calore umano, e tutto come abbraccio proprio. Questo Finalmente Natale, ricette e racconti per giorni di festa, scritto da Sabrine d'Aubergine. Marta, tu che parli francese, l'ho detto sì, bene? No, l'hai detto bene, poi è buffo perché si chiama d'Aubergine e l'Aubergine è la melanzana in francese. Vedi, non lo so. Chissà se è un nome d'arte o no, lei, ecco, che... questo non lo so, io l'ho scelto perché mi piace. Questo, appunto, dicevo, Finalmente Natale, ricette e racconti per giorni di festa di Guido Tommaso Editori. Allora, tu lo sfogli, solite belle fotografie, ormai ve lo dico sempre, e allora trovi per esempio l'insalata di finocchi e arance. Bene, sì, c'è sicuramente la ricetta, ma c'è anche magari una piccola storia, un ricordo, oppure per esempio si parla dei fiocchi di neve fatti di zucchero e quindi c'è, non so, qualcosa che fa tornare all'infanzia, secondo me, alle coccole natalizie, se avete dei bambini, dei nipotini, insomma, è veramente un libro, una ghirlanda fatta di meringa, che meraviglia. Alessandra, io come sempre quando vedo i libri così belli, con delle fotografie così belle, ti faccio la domanda priva di poesia, la lo sai so, già quale? Quanto costa? 25 euro, si può fare? Si può fare, sì, perché spesso questi libri molto belli poi però sono degli acquisti impegnativi. È vero, questo però per Natale, secondo me, veramente per chi ama cucinare, è bello. Poi andiamo sui piccoli grandi libri. No, allora. Io lo misuro, aspetta, 10, 20, 30. Sono 40 centimetri per 40. È enorme, è più grande di te. Aspetta che adesso lo sfodero dalla copertina, sentite il rumore. È un meraviglioso Geronimo Stilton, edizione speciale, 40 centimetri per 40, Le origini del regno della fantasia, pubblicato da PM, questo libro appartiene a, e poi ci si scrive, è veramente un libro enorme, appunto, l'avete capito, quasi mezzo metro per mezzo metro, con la storia, l'origine proprio di una delle saghe più famose di Geronimo Stilton. Guarda che belle le immagini, i colori. Io, sapete, cito sempre i miei nipotini perché li faccio sempre testare a loro questi libri. Sto già godendo all'idea di fargli il pacchettone, di farglielo aprire. Però secondo me anche ai grandi può piacere, sono delle illustrazioni bellissime. Ecco, se dovete viaggiare in aereo non può essere portato come bagaglio a mano, ve lo dico, perché è molto molto grande. È enorme. Però è un'edizione speciale, insomma, farà felici i bambini sicuramente. Stessa domanda di prima, guardiamo il prezzo, questo, perché questo è un regalo speciale, impegnativo, questo è molto questo bello. Te lo dico subito, costa 79 euro, quindi insomma, è un regalo impegnativo. Magari i nonni si mettono insieme, quattro nonni, e lo regalano sì, al nipotino. Però è un oggetto veramente molto molto molto bello. Allora, visto che tu mi chiedi sempre il prezzo dei libri, giustamente. No, giustamente, te lo chiedo per queste edizioni molto ricche, perché... Giustamente, ma è corretto, insomma, poi a Natale bisogna fare tanti regali, non è che si può spendere un patrimonio. Allora, ho deciso da questa settimana, in vista del Natale, di fare il consiglio low cost, perché si possono comprare anche i libri low cost. Quali sono i libri low cost? Quelli che non sono usciti da poco e quindi hanno già le edizioni economiche, tascabili, però sono assolutamente dei libri godibilissimi. E allora, per questa settimana, visto che c'è stato anche il film al cinema, ho pensato proprio al classico dei classici, cioè Pastorale Americana, di Philip Roth. Tu l'hai visto il film? Ho visto il film, è uscito direi a fine ottobre, film tra l'altro bello perché diretto da Ewan McGregor, ero molto curiosa di vederlo, la storia è meravigliosa. Sì, sì, perché poi insomma chi conosce Philip Roth sa che lui usa una sorta di alter ego, questo Nathan Zuckerman, che a sua volta racconta delle storie, in questo caso racconta la storia di un suo vecchio amico, Jerry Levov. Insomma, Pastorale Americana è uno dei classici che trovate veramente a poco perché è in edizione economica, economicissima. Mi piace molto questa idea, anche perché a volte facciamo delle piccole sorpresine, può essere anche un libro che noi abbiamo amato e che vogliamo condividere con qualcuno. Ma sai che da quando mi occupo di libri, la cosa che mi dispiace di più è che nessuno mi regala un libro pensato per me, perché dicono vabbè, tanto ce li ha tutti. È vero. E invece mi piacerebbe molto che qualcuno mi regalasse e dice ho letto questo libro e ho pensato a te. Che meraviglia. Alessandra, ultimo consiglio è quello del cacciatore dei libri, quando? Allora, lo sapete, è sempre scaricabile da podcast, quindi ve lo ascoltate quando volete. Se volete invece sentirlo, diciamo, in prima battuta sulla radio alle 6:30 del mattino del sabato, oppure questa sera in replica alle 22, e ci sarà Ildefonso Falcones. Tutti gli avvocati che volessero fare gli scrittori sono avvertiti. Non ci sono i consigli su come diventare da avvocato scrittore, però insomma si potrebbe anche cogliere qualche interessante suggerimento. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Baci natalizi. Il sabato del villaggio. Sono uscito stasera ma non ho letto l'oroscopo. Non è Rio de Janeiro ma c'è un clima fantastico. Io ti giuro stasera che ti cerco nel traffico. Sotto le unghie nei bar fino al mare del Baltico. Calcutta, ma perché Calcutta? Perché Calcutta sarà nostro ospite tra poco al Sabato del Villaggio, per concludere questa puntata del Sabato del Villaggio prima che come sempre si trasformi in RadioTube. Ma abbiamo un altro importantissimo capitolo da aprire, che è quello dei consumi. Continuiamo sempre un po' sulla scia dei regali di Natale, perché lo abbiamo detto, noi siamo partiti con l'inizio di dicembre perché poi i regali vanno completati in tempo. Poi sotto Natale, insomma, ce la godremo con i regali già tutti fatti. Allora chiediamo, come al solito, consiglio a Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Cosa ci fai comprare o dove ci fai comprare questa volta? Sì, perché ho deciso oggi di parlare di negozi unici, quelli cioè che si trovano in una sola location in Italia e diventano vere e proprie shopping destination, si dice, insomma, nelle mete turistiche, anche quel negozio in particolare. Esatto, ci si sposta proprio per andare lì e magari si mette insieme anche un weekend in alcuni casi. Allora partiamo da un'attesa per il 2017, quindi questo Natale, come dire, non c'entra. Sentiamo. Uniqlo. Io ho comprato in Francia. Fortunata. Avevo già detto, è uno dei miei marchi, delle mie marche preferite. Volevo un cappotto e l'ho comprato in Francia da Uniqlo, che arriva in Italia. Beh, intanto spieghiamo cos'è, perché magari non tutti lo conoscono. Esatto, catena di abbigliamento low cost giapponese. Cosa vende? Capi essenziali molto funzionali, i classici capi basic, quelli che nell'armadio non devono mancare in mai più senza, insomma. Tutto in tinta unita, tutti i colori, esatto. Tipo tre modelli. Esatto, ne compri uno di tre colori perché ti è comodo, ti va benissimo. Classico outfit da lavoro, magari comodo, perfetto. Insomma, da tutti i giorni. È un vero e proprio fenomeno commerciale, 800 store in tutto il mondo, è presente in Cina, Stati Uniti, Australia, Russia, in Europa è presente già in Francia, Germania e Belgio, e arriverà in Italia entro i primi sei mesi del 2017 a Milano. È un po' normale che arrivino subito a Milano, si sa. Beh, lo premettiamo, la quasi totalità di quelli che stiamo per segnalare sono a Milano, però in questo momento Milano è proprio la destinazione preferita dai brand che devono fare il loro ingresso sul mercato italiano, perché in questo momento, insomma, Milano ha un'attrattività superiore rispetto a quella di Roma, ai noi, insomma, se ci sono romani in ascolto, però è così, e ovviamente di tutte le altre città italiane. Sempre in piazza Cordusio a Milano, palazzo a fianco, lo storico palazzo delle ex Poste, Starbucks. Allora è vero, perché le bufale su Starbucks circolano da anni. Allora, apertura di Starbucks, e poi tutte le polemiche, Starbucks sì, Starbucks no. arriva allora. Non è ufficiale, ovviamente, no. Però è la voce più accreditata. È la voce più accreditata fino a che non arriva la smentita, quindi è quella che dà okay. la linea. Come Beh, dai, dire. Però le tue fonti sono più attendibili di quelle cose che si trovano. Sì, però in questi casi annunci e smentite si sono veramente rincorsi più volte. Davano quasi per firmato l'accordo, però insomma non si sa mai. Teniamo il condizionale, poi aggiorneremo nei primi mesi dell'anno prossimo. La data più accreditata in questo caso è settembre del 2017. Quindi immagino quindi... le file per esatto, provarlo. Esatto, il frappuccino ovviamente. Certo. Karl Lagerfeld, primo negozio monomarca in Italia a Scalo Milano. Scalo Milano è il nuovo shopping district vicinissimo a Milano, locate Triulzi, si raggiunge con il passante metropolitano. Quindi, nessuna fila in macchina se qualcuno volesse esatto, andarci. Esatto, c'è l'alternativa dei mezzi. In questo caso quindi già aperto, quindi una meta per lo shopping natalizio. Giocattoli, il Lego Store più grande d'Italia. Piazza San Babila. Siamo sempre a Milano. Tra l'altro in contemporanea con la mostra The Art of the Brick, aperta fino al 29 gennaio, per la CNN una delle 10 mostre al mondo da non perdere. Accidenti. In questo caso allora il Lego Store più grande d'Italia, inaugurato poco tempo fa, e allora ascoltiamo che cosa ci ha detto all'inaugurazione proprio Paolo Lazzarin, General Manager di Lego Italia. Sono 270 metri quadri di esperienza ad altissimo livello per i bambini, oltre ad essere più grande, oltre ad essere avere l'assortimento completo di tutti i prodotti, oltre ad avere dei prodotti in esclusiva come tutti i Lego Certified Store, in particolar modo questo store che potremmo definire per l'Italia assolutamente il più grande, ma il flagship store di Lego, ha tre elementi fondamentali. Uno è il Digibox, che praticamente è uno schermo digitale dove praticamente avvicinando una scatola viene letto il contenuto della scatola e si vede la realizzazione in tre dimensioni del prodotto. In un altro angolo del negozio abbiamo quello che si chiama minifigure scanner, dove praticamente i bambini, ma sicuro anche gli adulti, mettono la mano, il palmo della mano su questo schermo, il corpo della persona viene scannerizzato e praticamente viene a estrazione, esce l'alter ego della persona, quindi la minifigure che si rappresenta. E anche qui davanti al Lego Store grandi file, insomma sono negozi che tutti vogliono visitare almeno una volta. Ancora negozi unici? Quest'anno uno dei fenomeni insomma che ha fatto parlare è la prima apertura in Italia per Primark, certo. È un'altra catena low cost, di abbigliamento low cost di culto, specie fra le giovanissime, è un'insegna irlandese, 300 punti vendita in 10 paesi nel mondo, primo negozio in Italia appunto, aperto qualche mese fa nel centro commerciale di Arese, e invece aprirà il secondo store di Primark in Italia il 16 dicembre, quindi ormai ci siamo, nella seconda location a Brescia, centro commerciale Elnos, anche questo. E quindi cominciano ad allargarsi, quindi si parte da Milano ma poi ci si allarga. Esatto, tra l'altro vorrei aggiungere che sul centro di Arese è arrivato un importante riconoscimento, ha appena vinto il premio come miglior nuovo centro commerciale al mondo, il Mapic Award, che è il massimo riconoscimento nel settore, ha battuto il Westfield World Trade Center, che sorge appunto a Ground Zero a New York, quindi insomma. Complimenti. E chiuderei in dolcezza, Marta, se sei d'accordo. Sì, sempre. La Durée. Ah, così fa molto francese, molto chic, molto macaron. Non so tu, ma io sono assolutamente addicted dei macaron di La Durée. Un paio d'anni fa, prima apertura a Milano, ora siamo già a 4, perché oltre appunto a quella di Via Spadari a Milano è presente anche a Roma, Firenze e Lucca. Oh, che bello, così ci siamo anche un po' allargati. Oltre a Milano, appunto, lo ripetiamo, la prima apertura sempre, abbiamo capito perché, a Milano, però poi insomma arrivano anche in altre città. Se non altro però, se venite a Milano a far turismo, sappiate che ci sono anche questi negozi unici. Andiamo a sentire le chicche di Cristina Lazzati, sentiamo cosa ci ha preparato questa settimana Cristina. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Eccoci Cristina, qui. Allora, ciao. Qual è la tua chicca di questo sabato del villaggio? Allora, parliamo ancora di Natale e mi riaggancio a quanto detto toccanze da Maria Luisa, cibo e delicatesse sono nella mente degli italiani. Per gli italiani, secondo una ricerca fatta da Nielsen, il Natale è sinonimo di cibo, per cui spenderemo il 12% in più in media, quindi saranno persone che spenderanno il 50% in più di quanto spendono normalmente per fare la spesa, e investiremo, ho davanti a me delle cifre che messe insieme fanno un po' paura, 300 milioni di euro in più per panettoni, pandori, dolci natalizi e cioccolato. Questo è quanto si spenderà a dicembre in Italia per queste cose. Più di 100 milioni di euro per spumanti e champagne. A seguire poi abbiamo frutta secca, liquori distillati, salmoni e molluschi, 19 milioni per cotechine e zampone e 10 milioni di euro per besciamelle e mascarpone. E ho detto tutto. Tutta roba leggera. Esatto, per cui mi raccomando, sicuramente poi quando riprenderemo a gennaio dovremo parlare di diete, sì, palestre e quant'altro, questo, di questo sono certa. Poi ci sono alberi di Natale, addobbi natalizi, i giocattoli, ma andiamo un po' a vedere anche che cosa compreranno o che cosa, anzi, che cosa vogliono gli italiani. Per cui tra domanda, mi piacerebbe avere questo, e offerta, vorrei regalare questo, non ci siamo proprio. Per cui chiunque abbia in mente di regalare cioccolato, libri e quant'altro deve mettersi, deve mettere in conto che invece gli italiani vorrebbero, beh, il libro va bene sia come domanda sia come offerta. La maggior parte, il 55% degli italiani, non so se perché gli piace dire che leggono, perché i numeri poi delle letture non sono così alti, mi par di capire, però gli piacerebbe ricevere un dono, un libro, seguiti dall'abbigliamento e scarpe. Qui siamo tutte contente, un paio di scarpe, una borsa, eccetera, signori, mariti, sappiatelo, alle donne fanno sempre piacere, ma anche una cintura, un portafogli. Ci va, va bene anche quello. Sì, sì, chiudiamo un occhio su quello. Seguito poi dai viaggi, e la cosa interessante è che poi i regali che si seguono dopo sono massaggi, biglietti per il cinema, una mostra, un concerto, una cena al ristorante, un weekend. Insomma, gli italiani vorrebbero vedersi regalare delle esperienze più ancora che dei doni materiali. Dall'altra parte però, quando gli chiedi che cosa regalerebbero, invece l'experience se la dimenticano, e ovviamente i libri, perché abbiamo detto appunto che in questo caso coincidono, e poi a lei con dolciumi e cioccolato, scarpe, abbigliamento, e moltissimi decidono di regalare un profumo. Anche qui avvertenza ai mariti, i profumi non risolvono, poi non è che puoi cambiarlo ogni anno il profumo in linea di massima, quindi occhio a questi profumi, perché poi, senza togliere nulla all'industria dei profumi, che comunque va benissimo malgrado quello che io stia dicendo, però il profumo va un po' pensato. Come ci si informa? Beh, il web ormai è principe, quindi la maggior parte andrà sul web per vedere quanto costa, dove si trova, eccetera, ma poi gli acquisti di Natale, anche per quest'anno, verranno fatti prevalentemente in store, almeno quelli che, come dire, ci sono più vicini, perché vogliamo un po' cercare anche, capire, annusare, appunto, se parliamo di profumi. Beh, devo dire, sono molto contenti, saranno molto contenti gli ascoltatori che ogni tanto ci criticano perché parliamo molto di shopping online, e qualcuno ci critica perché dice: ah, non andate più nei negozi. No, noi siamo democratiche, noi andiamo nei negozi e facciamo anche shopping online. Beh, io oggi sono negozi. Oggi sono negozi, va bene, io questa settimana anche qualcosa online. Cristina, è tutto per le tue chicche di questo sabato? È tutto, e vi auguro un fantastico fine settimana. Grazie a Cristina Lazzati. Ultimo consiglio, quello di essere avere di Maria Luisa Pezzali. Quando? Domani alle 22. Ciao Marta. Ciao Luisa, al prossimo sabato. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Il sabato del villaggio. Già scende fredda su di te, Pesaro, una donna intelligente, forse è vero, ti hai fatta trasparente, ma non ci cascherai mai. Sicuramente letto il suo nome, anzi il suo pseudonimo, perché è uno dei nomi del momento, ma io sono sicura che questa cosa a lui fa un certo effetto, perché è un personaggio un po' particolare. Si fa chiamare Calcutta, E se non lo conosceste, adesso ve lo presento io. Buonasera. Ciao, buonasera. Lo facciamo un Calcutta for Dummies. Spieghiamo chi è Calcutta, chi non ti conoscesse. Calcutta for Dummies. Calcutta è un ragazzo di Latina. E già questo mi interessa molto. Nato, poi ti chiederò. Nel 1989. Bambino. A Latina. È appassionato di musica e in particolare di songwriting. Ti possiamo chiamare cantautore? Ma sì, a me non dà fastidio. È bella questa, a me non dà fastidio. No. Nel senso, ognuno poi no, la pensa come preferisce. È appassionato di scrittura, di canzoni. Quest'anno però ne parli con la più totale naturalezza della tua carriera. Hai fatto una quantità di live che quasi tutti gli altri se li sognano, lo possiamo dire. Ma no, dire. Ci sono tanti gruppi forse che... Cioè, ci sono vari gruppi che comunque toccano più o meno le cifre... Quasi nessuno, però quanti ne hai fatti? Ne ho fatti un centinaio, forse qualcosa in più. Calcutta ama anche andare in giro a suonare, conoscere posti, vedere gente e suonare dal vivo. Non sempre, suonare dal vivo è un'attività che... lo fa stare bene, però poi comunque alla fine la fa. Parla in terza persona è una cosa veramente difficile. Perché ti ho chiesto un Calcutta for Dummies. Ci sta, no? Ma certo ci sta benissimo, però tu sei Edoardo. Sì, alla fine sì, non l'avevamo ancora detto. No, sei Edoardo. Sono io. Ti posso chiamare Edoardo. In realtà sono io. Ti posso chiamare Edoardo. Sì, sì. Ma Calcutta però originariamente era il nome di un duo. Hai fatto come gli 883, sei rimasto Calcutta. Come... Ma diciamo era un duo, ma era un duo che poi arrivava fino a, che ne so, 6 elementi, 8 elementi. Una volta abbiamo suonato un 15. Cioè era una cosa di improvvisazione che facevamo con gli amici, ma senza nessun tipo di serietà. Cioè non era un gruppo alla fine. Era una cosa che facevamo per divertirci in apertura di gruppi, tipo che venivano a suonare nella nostra città, in un locale di amici. Poi dopo... Da questa gag, diciamo, da questa cosa che facevamo così, io ho scoperto di avere una passione per la scrittura di cose anche in italiano, soprattutto quella è stata la rivelazione. E quindi mi ci sono messo e poi siamo qua. Ho fatto un po' la conta delle domande che ti hanno... Si è capito quello che ho detto, sì. Era comprensibile. Perfettamente. Anche se so che tu sei uno che non ama tanto spiegarsi. Perlomeno lo dicono le interviste che ha rilasciato. Io ho fatto un po' la conta delle domande che ti hanno fatto. La domanda che ti è stata posta più spesso è stata: ti senti il cantautore interprete di una generazione? Infatti, però... diciamo che... È quella che ti hanno fatto sempre ogni volta? L'hanno fatta sempre, sì. Quasi sempre. O comunque si parlava di generazionale. Cioè comunque magari non era proprio quella formula, però ci arrivavano da qualche parte. Nel senso, a me dà noia pensarla così. Però, cioè, quindi non so se... Cioè, spero che insomma gli altri vivano un po' meglio. Un'altra delle cose che ti viene chiesta spesso è se ti adesso senti... Io bene, però ai tempi di quando, cioè ai tempi, diciamo, durante il periodo in cui scrivevo il disco non me la passavo tanto bene, c'avevo un sacco di problemi, di cose. Quindi dire che quel momento poi diventa rappresentativo di una generazione, insomma, per me dico: cavolo, allora siamo inguagliati, cioè, un po' sì, ma non lo so. Poi alla fine, capito, i discorsi sulle generazioni sono sempre di discorsi che partono proprio da hanno un tono accademico quasi sempre, ma poi in realtà sono dei discorsi da bar, secondo me, perché cioè sono delle cose un po' campate in aria comunque. Cioè si dice questa generazione, ma io preferisco sempre pensare che ci sono tanti individui e magari uno, per parlare un po' al bar, dice che quella generazione è così perché magari quel giorno ha voglia di vedere quella caratteristica. Cioè di quegli individui, quella caratteristica comune magari la vede lui. Poi è sempre grossolano parlare in generale. Senti Edoardo, allora ai giornalisti piace un sacco fare le liste, le classificazioni e nel caso della musica le scuole. Quando sono arrivati Niccolò Fabi, Daniele Silvestri eccetera, si diceva la nuova scuola romana dopo la scuola romana. Adesso si ricomincia e si dice adesso sono arrivati Calcutta, i cani, i giornalisti. C'è qualcosa di comune o no? Io sono di Latina innanzitutto, la scuola di Latina. Che siamo io, Tiziano Ferro. Tiziano Ferro, tu. Tiziano Ferro. Poi non so chi altro c'ha la scuola di per Latina. Ora, per ora, per Latina ora. È una città piena di no, risorse. A parte le cose, sia nella musica dei cani che nella musica dei giornalisti, in qualche modo, sarà che magari Roma è una città che ho conosciuto da vicino, riesco a intravedere in uno un tipo, nell'altro un altro tipo di romanità. Nella mia musica no, mi sembra che tutto sia abbastanza più circoscritto a non so come dirti, a un appartamento, cioè, mi sembra più una musica che viene da dentro casa che una musica, non so, questa è la sensazione che ho, cioè come se la musica fosse comunque una musica di notte dentro casa, mentre loro magari parlano delle, cioè, è più su strada. Beh, di notte dentro casa è fighissima però, eh. Eh sì, magari in balcone, ecco, ecco la mia musica un po' da balcone. Soprattutto per quelli che escono a fumare. Da cortile di casa, capito? Sì, capito, la sigaretta nel cortile di casa. Mm. Mentre loro comunque hanno qualcosa di romano, cioè di metropolitano no, di romano. Sicuramente c'è una vena pop, che però non è vero che c'è solo a Roma, cioè... No, adesso quest'anno ci è andata bene a noi, magari l'anno prossimo solo gruppi di Padova. Ultima domanda, sai che quando Google Calcutta tu vieni prima della città? Vuol dire che... Penso che dipenda dal tuo account. No, guarda, ho fatto un po' di prove e vuol dire che in questo periodo cercano più Calcutta a te che Calcutta la città, eh? Mi dispiace per il comune i calcuttesi di Calcutta. Per il comune di Calcutta, spero che un giorno di poter insomma sdebitare. Sdebitarmi dopo Pomezia, dopo Frosinone, dove? Calcutta. E sto fa fuori tutte. Grazie, Edoardo. Prego. Lo adoro Calcutta, il suo album Mainstream lo sto consumando in questi giorni in auto. Viaggio di andata verso il lavoro, Calcutta. Viaggio da ritorno dal lavoro, Calcutta. Insomma, sto ascoltando solo lui. Straordinario, grande, grande, grazie Edoardo. Lo so, è un tipo molto particolare, molto molto molto divertente. Me lo metterei sul comodino lì, sul divano a casa, me lo terrei sempre. Grazie, grazie, grandissimo Calcutta. Adesso noi diamo la linea al giornale radio delle 17, perché c'è il giornale radio, poi torniamo ancora insieme per un'ora, perché il sabato del villaggio come sempre a quest'ora cambia d'abito e diventa RadioTube.